Euroreportage. Jean-Claude Juncker, presidente designato della Commissione europea, è un primo bocciolo di flessibilità che penetra nel sancta sanctorum delle politiche di austerità europee. Buongiorno da Sergio Nava. Si è dunque chiuso ieri a Bruxelles un vertice molto importante per il futuro dell'Unione europea. Incamerate le notizie che avete ascoltato anche nei nostri notiziari. Oggi andiamo a commentare i risultati del summit, proiettandoci nel futuro, futuro che significa anche presidenza italiana dell'Unione europea, che comincia martedì. Ma sentiamo subito cosa ha detto il Premier Matteo Renzi introducendo ieri la sua conferenza stampa. È stato un Consiglio europeo molto tosto, complicato, molto importante anche per tanti motivi, anche per l'ampiezza dell'agenda che stava alla base delle nostre discussioni, aperte peraltro da un momento di particolare emozione, la cerimonia di Ypres, che in qualche modo è un riconoscimento al passato ma anche un monito per il futuro, raccontare che tipo di Europa abbiamo in testa, da dove nasce l'Europa, che è figlia di secoli di guerra e che è riuscita a creare la più straordinaria delle avventure nel momento in cui ha creato condizioni per 70 anni di pace. Il tema ucraino, tra l'altro ieri ho visto il presidente Poroshenko rientrato da Ypres, quindi verso le 23 ieri sera in albergo. Il tema dell'immigrazione, che ci riguarda poi in modo particolare per la parte delle conclusioni che è connessa con il rafforzamento di Frontex, il semestre, il nostro semestre europeo, la situazione economica con la presenza del presidente della Banca Centrale Draghi, gli accordi non soltanto con l'Ucraina ma con Georgia e Moldova e naturalmente tutti i temi dell'energia. Lo avete ascoltato, così il Premier Matteo Renzi ha riassunto i temi principali in agenda al summit, ma noi ci focalizziamo in prospettiva di analisi sui due principali e saluto subito, do il buongiorno da Bruxelles a Enrico Brivio, buongiorno. Buongiorno. E a Gerardo Pelosi, buongiorno. Enrico Brivio e Gerardo Pelosi hanno seguito per noi e per il Sole 24 Ore questa due giorni di vertice. Comincerei con Enrico Brivio e con una analisi generale, partendo dalla designazione di Jean-Claude Juncker a presidente della Commissione europea. Alla fine è tutto andato come previsto, però la rottura con la Gran Bretagna sembra parecchio seria stavolta. Enrico? Sì, diciamo che la designazione di Jean-Claude Juncker era in qualche modo annunciata, visto che vi era stato questo accordo dell'Europarlamento sul fatto che il vincitore, cioè chi era alla guida dello schieramento politico che si era affermato maggiormente nelle elezioni, potesse essere il candidato se riusciva a creare una coalizione nell'Europarlamento sufficiente. Va detto che soprattutto da parte italiana, ma poi anche di altri paesi, si è insistito sulla necessità che fosse presentato un programma, fossero presentate le linee guida, e su questo Juncker ha portato a casa il consenso del Consiglio europeo, che però appunto, a differenza di quelli del passato, non è unanime, ma vede anche il voto contrario di David Cameron, dell'inglese, e dell'ungherese Viktor Orban. Enrico, che tipo è Jean-Claude Juncker? Raccontiamolo, perché è poco conosciuto forse in Italia. Ma sai, Jean-Claude Juncker è figlio di un siderurgico, ha frequentato per anni i consigli europei, perché già da giovane è diventato sia ministro delle finanze che primo ministro del Lussemburgo. È una persona abbastanza dagli humor piuttosto tagliente, dalle battute facili, anche se forse negli ultimi tempi, invecchiando, si è un po' sbiadito. Non è più brioso come un tempo. Cambiando tema e parlando invece di flessibilità, insomma, è stato un tema molto dibattuto. L'Italia e la Germania si sono sfidate a colpi di fioretto nei giorni precedenti al vertice. La tua personale impressione, perché non è chiarissimo alla fine se l'Italia veramente ha ottenuto quel margine che chiedeva. Poi tra poco ne discuteremo anche con Gerardo Pelosi. La tua personale impressione? Ma l'impressione è che come si sa, questi vertici, soprattutto questo, che delinea un programma di massima, un'agenda strategica per 5 anni, sono spesso un elenco di buone intenzioni e quindi documenti piuttosto vaghi. In questa vaghezza in generale, comunque l'Italia ha cercato di far valere un principio, cioè che vi sia uno dei margini di flessibilità o vengono utilizzati al massimo i margini di flessibilità per quei paesi che attuino delle riforme. Ora, quel principio c'è, ma appunto bisognerà vedere poi a seconda anche di chi saranno gli uomini che verranno scelti nella Commissione europea. È corretto dire, Enrico, che andrà di fatto negoziato di volta in volta alla fine? Ma proprio forse questo è un po' eccessivo, nel senso che in realtà il patto di stabilità è lì ben fermo da anni. Sono stati adottati e sono instillati appunto alcuni meccanismi per dare più flessibilità da un lato, ma si è anche data più rigidità dall'altra, con per esempio l'obbligo di rientro dal debito eccessivo in 20 anni. Quindi è da vedere. Chiaro che però ci sono dei margini discrezionali, quindi sarà molto importante la scelta del commissario europeo agli affari economici, cioè il successore di Olli Rehn, chi sarà, e anche l'atteggiamento che avrà l'Ecofin, l'Eurogruppo e il suo presidente nei confronti delle interpretazioni che si possono dare al patto. Ecco Enrico, su questo sentiamo, proprio su questo tema, sul tema della flessibilità, cosa ha detto Matteo Renzi, che ha parlato anche del suo voto per Juncker. Ho votato a nome dell'Italia per Jean-Claude Juncker in una procedura che si è esplicitata in maggioranza qualificata perché c'era un documento. Non l'avrei fatto in assenza di un documento, non l'avrei fatto in assenza di un accordo politico tra le forze di coalizione, ma è indicato presidente perché c'è un accordo politico anche degli altri, se no non avrebbe numeri all'interno del Parlamento. Si dice che cosa deve fare l'Europa dei prossimi 5 anni prima di dire chi la guida. Molto molto molto buono dal punto di vista della sostanza, perché per la prima volta la centralità e il focus è sulla crescita. Noi riteniamo che non si debbano violare le regole del patto di stabilità, ma viola il principio e lo spirito del trattato e dell'accordo tra di noi chi parla soltanto di stabilità quando il patto è un patto di stabilità e di crescita. Gerardo Pelosi, Renzi ha portato a casa quello che voleva sulla flessibilità all'interno del patto di stabilità. È difficile fare una valutazione di questo tipo così a poche ore di distanza, perché tutto andrà poi verificato nelle settimane, nei mesi prossimi. Di certo c'è un cambio di passo nell'atteggiamento del premier italiano, un atteggiamento molto più politico. Quando lui ha detto ho votato a nome dell'Italia Juncker perché c'era un documento politico, in realtà il documento politico e quindi premia il suo metodo, cioè prima l'agenda poi i nomi. Però ricordiamoci che qualche settimana fa lo stesso Renzi si era espresso in termini abbastanza critici su Juncker, nel momento in cui la cancelliera Merkel ancora traccheggiava e non aveva ancora ben capito quale presa Juncker avesse sull'elettorato suo del PPE anche in Germania. Poi, quando c'è stato questo cambio di atteggiamento della Merkel e quindi un'accelerazione, anche Renzi ha capito politicamente che era il momento di dare l'approvazione a Juncker e l'ha fatto. La novità forse di questi due grandi politici, diciamo una politica di grande esperienza come la Merkel, che è ormai sulla scena europea da vari anni, e di un giovane, giovanissimo, però abilissimo protagonista della scena politica europea come Matteo Renzi. Diciamo che la novità di questo vertice è questo rapporto molto stretto, esclusivo, di due politici che si riconoscono, e forse anche la sofferenza della Merkel, confessata a Renzi, di essere stata vista nel passato dall'Italia come causa dei mali e di tutti i mali di cui soffre l'economia italiana. In breve, Gerardo, hai l'impressione che si sia creato un asse o comunque una sintonia tra Renzi e la Merkel? C'è stato uno scontro, a quanto pare, la notte, poi si sono rivisti con una maggiore intesa, a quanto pare. Cioè, è nato qualcosa? Anche sullo scontro bisogna essere chiari. I due si parlano in maniera diretta, cioè senza quel diplomatese, senza quegli infingimenti. Lei dice esattamente le cose come stanno e lui reagisce in maniera diretta, e quindi se lei gli dice guarda il patto di stabilità dice questo, lui dice sì, ma per chi fa le riforme bisogna anche prevedere degli strumenti di flessibilità, e soprattutto ha detto noi non faremo come la Germania fece, chiedendo alla presidenza italiana nel 2003 di Berlusconi e Tremonti una deroga alla regola del 3%. Questo non lo faremo mai, rispetteremo il 3%, non vogliamo sconti, adesso tutta la partita si gioca in Italia sulla capacità dell'Italia di fare le riforme. E staremo a vedere, perché Matteo Renzi e Angela Merkel saranno i protagonisti dei prossimi 6 mesi con la presidenza italiana dell'Unione Europea. Staremo a vedere cosa accadrà. Io ringrazio intanto Enrico Brivio e Gerardo Pelosi in collegamento da Bruxelles. Una buona giornata da Sergio Nava. Euro Reportage in collaboraZione con Euronet Plus.